fossi io, viene lento di vagar, una musica brutal encendió nuestra pasión. Melog 2.0 di Gianluca Nicoletti. Noi abbiamo un ricordo della nostra fanciullezza sempre legato a sorrisi, a momenti lieti, a compleanni, battesimi, cresime, ai momenti che le foto di famiglia congelano in un istante di artificiale felicità. Ma in realtà siamo tutti stati bambini tristi. Lo dicemmo il 29 gennaio 2009, questa mattina vi facciamo sentire perché. Ce n'è nel mio cuore di fiabe da narrare, da narrare. Venite con me nel mio mondo fatato per sognare, per sognare. Non serve l'ombrello, il cappottino rosso, la cartella bella per venire con me. Basta un po' di fantasia e di bontà. Tanto, tanto tempo fa, un mugnaio, dopo una lunga vita di lavoro, chiamò al letto di morte i suoi tre figli. A te, figlio primogenito, lascio il mulino. A te, che sei il secondogenito, lascio invece l'asino. A te, che sei il più giovane, lascio il gatto, al quale ero tanto affezionato. E ora, figli miei, abbracciatemi per l'ultima volta. E i fratelli rimasero soli. Io lo accetto con piacere, se anche lui è del parere. Son felice, arci contento, ci sposiamo in un momento. Avete tanto insistito che questa mattina torneremo tutti bambini. L'ombrello, il cappottino rosso, la cartella bella. I padri credono sempre schiattare, rantolare. I bambini rimangono sempre soli. Rimangono soli in universi ostili. I bambini fondamentalmente rappresentati dal mondo delle favole sono dei bambini tristissimi, sono dei bambini terrificanti nella loro impagabile sorte che li vuole sempre tartassati, massacrati, distrutti, passando attraverso prove terribili. Beh, su questo noi siamo stati allevati. Le fiabe sonore sono state il commento sonoro di almeno tre generazioni. Abbiamo già detto in puntate precedenti, cambiava il supporto dal vinile di 45 giri che entrava e usciva dal mangiadischi alla audiocassetta e finalmente il CD. Oggi ci si passano tra genitori gli MP3 delle fiabe sonore. Ma sono sempre il corredo sonoro delle influenze, dei morbilli, delle varicelle, dei mal di gola. Questo è il periodo in cui molti di noi hanno ascoltato e riascoltato le fiabe sonore, mentre venivano sottoposti alla tortura del suffumigio, dell'impacco caldo, dello sciroppo cattivo, della supposta, del termometro, della minestrina e della fettina, perché bisogna mangiare quando si sta male, così ci si tiene in forza. Beh, questa mattina riprendo un vecchio gioco che i più affezionati ascoltatori della radio conoscono bene. Proviamo per un attimo a tornare noi quando eravamo bambini. Sembra difficile, sarà impossibile. Guardatevi attorno, guardate quel collega, guardate il vostro capo, accendete la televisione, guardate il politico serio, guardate il grande giornalista, guardate la soubrette, guardate quelle facce scomposte, composte, rifatte, quelle persone importanti. Immaginatevi i bambini, anche loro, sembra impossibile, sono stati bambini. Anche loro hanno avuto il problema della fiaba sonora, anche loro hanno avuto il problema della tristezza, dell'abbandono momentaneo, anche loro hanno avuto la gelosia per i fratelli minori, per gli amichetti, anche loro hanno invidiato, anche loro hanno desiderato il giocattolo che non potevano avere, anche loro sono stati redarguiti, anche loro è stato detto che i bambini buoni mangiano tutta la pappa e via dicendo. Tutti siamo stati bambini. Ma vi ricordate cosa pensavamo quando eravamo bambini? Nessuno se lo ricorda. Quando si parla di bambini se ne parla in astratto, come qualcosa di alieno, qualcosa che non appartiene più alla nostra esperienza. I bambini, e giustamente si parla dei bambini abbandonati, dei bambini bistrattati, dei bambini violentati, dei bambini maleducati, e dei bambini beneducati, dei bambini vezzeggiati. I bambini sono sempre un universo immaginario, qualcosa che non ci appartiene più, qualcosa di cui ci siamo dimenticati. Ma noi siamo stati tutti bambini. Anna dai capelli rossi va, vola in barca meraviglia, Anna ha capelli rossi, l'orfanella che non a caso non ha genitori, non ha nessuno. Esiste una sorta di iter educativo o correttivo di tutti i bambini, ma di tutte le generazioni. Le generazioni passate avevano Pierino Porcospino, il bambino con le unghie talmente lunghe che arrivava al sartore e gli tagliava anche le dita in sovrappiù, o l'altro bambino che si pendolava con la sedia, cadeva per terra e si spaccava le ossa, o l'altro che prendeva in giro il bambino negretto e arriva il mago, lo intinge nell'inchiostro, diventa tutto nero e via dicendo. Era un terrificante libro ottocentesco che spiegava ai bambini che i cattivi comportamenti andavano corretti anche con molta decisione, e quindi avevamo paura. Paulinella che giocava con gli zolfanelli, una bambina che accendeva i fiammiferi, i gattini dicono no, non li accendere, li accende e rimane Paulinella soltanto un mucchietto di cenere. Un giorno vi leggerò le filastrocche di Pierino Porcospino. Ma andando avanti, cambiando anche i supporti ai genitori per educare i loro virgulti, è rimasta sempre questa terribile condanna alla miseria, alla disperazione, all'abbandono, al massacro che abbiamo tutti passato. Anna nei capelli rossi era la rilettura attraverso la moderna, allora per gli anni 70, videografica giapponese per realizzare cartoni animati, di antiche massacranti storie di orfanelli occidentali, europei, e quindi di Anna da capelli rossi, tutta una storia di bambini orfani e bambini che rimanevano soli, però con quella grafica reale, con quegli occhioni grandi, e con quelli noi siamo cresciuti. Io ieri, come sempre faccio, lanciai questa facezia su Facebook, il più attuale, il più moderno, le ultime statistiche di ieri lo mettono al vertice di tutte le aree web frequentate in Italia. In Italia, che sembrava ci fosse un digital divide spaventoso, gli italiani hanno riscoperto in realtà la loro passione nel raccontarsi attraverso il social networking. Beh, ieri misi in questo moderno strumento una foto di me, tristissimo bambino, con un triciclo di latta orribile, con delle scarpine di pezza a cui tagliavano la punta quando cresceva il piedino per risparmiare, con dei calzini a soffietto calati, con un grembiolino a quadretti che per me equivaleva alla camicia di forza. Ce li faceva una sarta di paese. A quadretti erano rossi o blu, a scelta, un anno rosso e un anno blu, non si cambiava. I fratelli più piccoli mettevano i miei dismessi. Con un collettino, una faccia triste, stavo lì impietrito, immobilizzato contro un muro, come se fossi un condannato pronto ad essere fucilato. E cioè, oggi parliamo dei bambini tristi. E ho ricevuto circa un centinaio di messaggi nel giro di un'ora. Tutti hanno messo la loro fotina triste di quando erano bambini tristi e hanno cominciato a raccontare episodi della loro fanciullezza. Ci siamo accorti che il mondo, se noi ci ricordiamo come lo vedevamo da bambini, era un mondo sì, pieno di desideri, di fantasia, di innocenza, ma tristissimo, spaventoso. Da una parte terrificati dai mostri delle favole, dai mostri che venivano evocati perché stessimo buoni, d'altra parte di questa insondabile realtà degli adulti che noi vedevamo dalle ginocchia in giù, che era un mondo di sconosciuti, di alieni, di mostri, con i quali non avevamo nulla da fare. Abbiamo cominciato a raccontare le storie di noi bambini tristi e è cominciato a venire un divertente gioco tipico del raccontare in rete, per cui tutti hanno cominciato a drammatizzare, radicalizzare i loro racconti. Alla fine siamo arrivati a racconti improbabili, bambine che raccontavano nella realtà una vita seria, professioniste, cinquantenni, di essere state buttate alla finestra ai genitori perché non mangiavano la minestrina, di essere risalite per 5 rampe di scale con il braccino cioncato, costrette a mangiare comunque la minestrina fredda. Questa mattina una professoressa, una nota biologa di cui non posso fare il nome, ha raccontato per facezia, prima di prendere l'aereo e andare non so in quale importantissimo seminario internazionale, che avevano spento il ferro da stiro bollente sulla schiena e ancora dice che è un tatuaggio venuto male. Quindi l'ironia degli adulti, anche se sono temi su cui non c'è da ironizzare quando sono violenze reali che avvengono sui bambini, amano raccontare la loro fanciullezza come un periodo triste. Perché? Perché noi siamo stati il simulacro dello status dei nostri genitori quando eravamo bambini. E proprio per questo io una decina d'anni fa lanciai un concorso attraverso la radio. Raccontatemi attraverso le vostre foto la vostra infanzia di bambini tristi. E oggi ho revocato qualcuno di questi reperti che sembrano uscire da un tempo che sembrava scomparso. Questi Questa sono io in tre tristissime fasi della mia tristanzuola fanciullezza. Nella foto 1 sono al mare in una pseudo posa da ballerina. Si noti il topless che mi imponevano, anche se bambine molto più piccole di me avevano l'invidiato bikini, ma soprattutto osserva la gogna dei calzini ai piedi contro l'umidità. La numero 2 è la classica renna con Babbo Natale, che già abbondantemente è presente nella tua rassegna, la mando solo per repertorio. La numero 3 è un triste compleanno solitario con la classica torta fatta in casa dalla mamma, nerastra e informe, così diversa da quelle che zia Paperina faceva ai suoi nipotini. Putina. E già mi scrive Manuel su Facebook: ho fatto 40 giorni di incubatrice, credetemi, poi l'ho pagata, anche niente latte di tetta, solo artificiale, che negli anni 70 era di moda così. So che non sono tristezza da infanzia di Kenziana, ma il dolore non è un guanciale e non si misura a detti. 800 24 00 24. Immaginate per un attimo, fermate ogni azione, fermate ogni attività, chiudete la porta, socchiudete un attimo i vostri occhi e vedetevi bambini. Cercate di immaginarvi in una di queste situazioni paradossali in cui veniamo posti da bambini, come vedevamo il mondo. 800 24, cosa facevamo noi quando eravamo bambini? Per la prima volta in vita sua sentì una struggente nostalgia per l'attimo che stava vivendo. Mai più come allora avvertì l'immenso privilegio della condizione infantile. Il passato, troppo prossimo per appartenere al ricordo, si rifugia in uno scrigno che solo l'età matura andrà a riaprire. Il futuro, grazie ad un immaginario incorrotto, già vive, diluito in un eterno presente. Con la voce rotta alla commozione ho dato soltanto metà numero di telefono, ma lo sapete a memoria, io ve lo ripeto, ma ormai chi non sa che il numero per chiamare Radio 24 è 800 24 00 24. Lo ripeto perché in fondo fa piacere sentirlo, ma lo ripeto non vanamente, perché mi servirebbe di aggiungere qualche testimonianza contemporanea a quello che stiamo dicendo. La percezione del tempo, la percezione del passato e del futuro quando eravamo bambini era completamente diversa. Non c'era un passato per noi se non ieri, l'altro ieri, una settimana fa, mi ricordo quel compleanno, ma erano pochissimi anni, una manciata di anni. Quindi non c'era nessun fardello di passato, ma non c'era nemmeno questa idea che il futuro fosse qualcosa da vivere con un tempo lunghissimo a disposizione. Il futuro era il desiderio di gioia, il desiderio di sorriso, il desiderio di piacevolezza per uscire da quei tristi attimi in cui eravamo ingabbiati. Ma perché erano attimi tristi? Io sono un po' condizionato dal mio status di baby boomer. Noi abbiamo vissuto quello che oggi viene celebrato come il boom economico. Ci torno molto spesso, ma in realtà in un momento come questo è bene definire quello che erano le fessure insidiose di quel periodo che tutti descrivono come un periodo di grande crescita, di grande felicità. Noi dovevamo rappresentare fisicamente, come se fossimo dei manichini viventi, dei simulacri organici, lo status meraviglioso raggiunto dai nostri genitori, che erano tutti muniti di macchina fotografica Ferrania, quelle macchine con custodia di finta pelle marrone, pesantissime, che però servivano a fare le prime istantanee, cioè a congelare momenti di felicità. Non occorreva più andare dal fotografo a mettersi in posa, perdere un sacco di tempo in uno studio per fare foto. Le foto si facevano ovunque e l'ovunque era relegato comunque a una serie di luoghi deputati. L'ovunque era il Natale, in cui bisognava fare delle foto sotto l'albero di Natale con i giocattoli in mano, o nei casi meno fortunati in cui si era protagonisti di un presepe vivente o di una recita scolastica. Un altro dei punti fondamentali erano le feste comandate, prima comunione tra tutti. Nella rassegna di foto di bambini tristi che ho messo sul mio profilo Facebook c'è la mia foto terribile con mio fratello della mia prima comunione. Avevamo il vestitino di gabardin nocciola, perché così si mette anche altre volte. Tutti i miei amichetti avevano un vestito blu con i pantaloncini lunghi, noi gabardin nocciola con i pantaloni corti. Eravamo lì congelati con le nostre cravattine elastico a forma di farfallina, con la targhetta di latta ce l'ha appiccicato il prete, appoggiati a un albero, anche lì, come martiri pronti alla fucilazione, dobbiamo celebrare la felice gloria di quel giorno, che per noi non rappresentava poi una grandissima felicità. Perché? Perché eravamo costretti in delle scarpe con i lacci strettissimi che facevano male ai piedi, ad esempio. Felice, buongiorno. Buongiorno, senta, io volevo intervenire. Io sono di una generazione precedente la sua, sono nato nel 47. Ma è stato bambino tristissimo, quindi? No, io non sono stato, sono stato un bambino felicissimo, devo dire, figlio di gente poverissima, e volevo più che altro raccontare, perché mi sembrava significativo, una fiaba che mi raccontava mia mamma per farmi mangiare, perché io ero un tipo che non voleva mangiare. Io non mi rendevo conto della crudezza di questa fiaba che è raccontata, è una filastrocca in dialetto bergamasco. Se vuole gliela accendo, perché sì, appena sì. Solo perché lei dice sì, sei sì, stato felice, già mi ha elencato due momenti di tortura, quindi comunque sì. Va bene, prego. Ma niente, la mia mamma brittassa ma schissata al coin della cassa. Quindi la mia mamma brutta mi ha schiacciato la testa e mi ha decapitato con una cassa. E queste sono naturalmente sottolineature di una meravigliosa felicità infantile. Sì, prego, ecco, vada avanti. E io avevo una cassa in corridoio dove io immaginavo che uno potesse schiacciarmi la testa. Poi, e mai per gioco la sua mamma gli appoggiava la testolina? No, mai. Perdeva momenti di meraviglia, prego. Prima strofa, seconda strofa, il me papà brut, ma mangia quasi tutto. Nel senso che la mamma, dopo aver decapitato la figliastra, l'ha cucinata e l'ha data da mangiare al marito. Poi, aveva un animo meravigliosamente poetico. Era una filastrocca che girava lì nelle nostre te. Poi la terza strofa, se le può interessare, mia sorella bella, ma attaccata all'alberella. Cioè questa, l'hai piccato. Ha preso le ossa, resti dell'avanzo del pasto del padre, e le ha attaccate agli alberi i resti di questo pranzo. Però c'era una lezione dentro, non si butta via nulla, nel senso anche l'ossicino del bambino hanno una loro funzione. Devo sottolineare che io non capivo bene, cioè capivo il senso, ma non è che mi terrorizzasse, ed ero così affascinata da questo suono, da questa cantina così, che per farmi mangiare mia madre mi doveva cantare questa storiella. E nonostante questo lo ricorda come un momento di grande felicità. Ah, io mi ricordo un momento di grande felicità. E poi un'altra cosa che volevo sottolineare, io non ho avuto nei dischi, nei long play, nei cose, perché sono nato negli anni... Non aveva bisogno, 40. Perché penso che Anna con dai capelli rossi, in confronto, era una storiella da scuola elementare rispetto all'università del terrore che le veniva impartita a casa. Ecco, però io non ho mai provato nessuno. Invece mio padre aveva un approccio diverso. Mio padre ogni tanto mi raccontava delle fiabe, che però lui aveva inventato questo meccanismo. Un figlio che non aveva genitori e doveva scoprire chi erano i suoi genitori, e questa voce gli diceva che doveva andare agli albori del sole, dove sorge il sole. Ora questo ragazzino si incammina verso est e lungo questo viaggio verso l'est della terra gli capitano tutte le avventure, e mio padre lo infarciva dentro con le storie, non so, del rimeschino, del garganto, del Siegfried, eccetera, e ogni sera c'era una puntata, e questa fiaba non è mai finita, perché questo ragazzo non è mai arrivato a dove sorge il sole, a vedere il sole. E queste invece erano fiabe di carattere completamente belle, insomma, principesse, le solite fiabe che si possono, con bisogno. Vedo che comunque cominciamo a scaldarci, cominciamo a tirare fuori i raccordi, anche se devo dire che la differenza generazionale tra un ragazzo nato nella guerra e un altro che invece ha vissuto il periodo del dopoguerra si nota, è percettibile da questo ricordo di un bambino triste. Mi rendo conto di non rientrare per ovvie ragioni anagrafiche nella regione temporale dei bambini tristi, ma desidero comunque farti partecipe della mia tristitudine infantile. Ti invio perciò queste due foto. La prima è in bianco e nero e ritengo risalga al 78. Questa foto mi immortala in un gigantesco pentolone da calda arroste, sottoposto alle angherie allo scherno dei bambini tristi più grandicelli. Non ricordo assolutamente la ragione per cui mi avessero messo lì dentro, ma sulla destra si intravede la gamba di un altro bambino, immagino anch'egli triste, che spunta da un omologo pentolone. Allora, 800 24 00 24, telefonate, raccontate come voi vedevate il mondo quando eravate bambini, e soprattutto se avete nella mente una vostra foto che vi immortala in un momento di gloria fanciullesca, raccontatecela. Melog 2.0. La seconda foto è successiva di qualche anno, è a colori, fatta in una bella giornata di sole splendente, rappresenta una bambina sorridente travestita da Minnie che mostra orgogliosa il suo codino. Il vestitino di carnevale è ben fatto. Cosa ha a che vedere questa foto con i bambini tristi? Un solo, semplice e agghiacciante fatto: quella bambina sono io. Un maschietto costretto a travestirsi da Minnie per poter adeguatamente riciclare gli abitini della cugina. Non credo che possa esistere tortura psicologica più terribile e infame. Il fotografo, padre di un mio amico, incaricato di fare una foto al gruppo dei maschietti ed uno a quello delle femminucce, ha lungamente esitato sulla mia esatta collocazione, finendo per chiedere lumi alla maestra. No, c'è di peggio. A distanza 10 anni mi scrive Rezia su Facebook. 1967, bambina di 6 anni. Il pane non si butta, mi diceva mia nonna, neanche una briciola. Lo sai che ti succede se lo butti? Incalzava. Succede quando muori, prima di andare in paradiso, la Madonna ti porterà in giro a raccogliere tutte le briciole che non hai mangiato. Ma siccome lassù sarà buio, per trovare tutto il pane ti accenderanno le dita della tua manina, così potrai far luce e raccattare il pane che hai buttato. Poi mi scrive Christian, la mia prima comunione, mi manda anche la foto, cominciano ad arrivare le foto dei bambini tristi di questa generazione, la generazione internet. 10 anni fa me le mandano via posta, oggi me le mandano digitalizzate. Terribile foto anni 70 della prima comunione, ambientata in uno di quei ristoranti dove normalmente si fanno matrimoni, con le sedie di finto legno antico e di finta fratina, con un lampadario terribile, con lampadine a basso voltaggio, così si risparmia anche corrente. Lui ha una giacchina di velluto cangiante con un gilet sotto blu, la giacchina è marrone, non c'entra nulla, terrificante, blu e marrone, perfetto cafone. Al collo gli hanno messo una specie di sciarpa arrotolata, dovrebbe essere una non lo so, una romantica cravatta, che però è terribile, sembra un fazzoletto, che sembra che abbiano preso uno dei tovaglioli a quadretti di quel ristorantino e gli abbiano hanno dato al collo. Però la giacchina marrone in pandan con il vestito cangiante della madre, un taglierino orrendo, la madre con dei bei capelli come andava negli anni 80, ispirati alle telenovelas, il padre con dei bei baffoni come nei film di Alvaro Vitali, anche lui con un bel vestito completo di velluto con il gilet, andava molto il gilet. E gratta, gratta sul tuo mandolino, muove di bambino, la musica è frusciolì, che tu le siete di calì, e canta, canta le tavo galline, muove di bambino. Una callipigia ascoltatrice, lo immagino, vedo soltanto la foto del faccino da Facebook, mi segnala questa canzone Dalida, che era una trasposizione di una nota canzone napoletana, però le parole erano terrificanti. Gratta, gratta, mon petit bambino, sul tuo mandolino. Non si sa bene cosa doveva grattare questo bambino, quale terrificante operazione veniva sottoposto. Luisa, buongiorno. Buongiorno. Io vi ascolto sorridendo e volevo stigmatizzare, ricordare. Sì, non faccia la buona però questa mattina, no, che non è aria. 43. Ecco, perfetto. E quindi, avrà avuto anche lei un'infanzia massacrata? Un'infanzia massacrata, ecco. Ma in modo particolare dalla scuola. Certo, sempre, le maestre perché, sono le prime. Esempio, vado in una scuola nuova a Milano, in terza elementare, con quelle scuole, prima e seconda, fatte un po' pasticciate nel dopoguerra, eccetera. La maestra di questa scuola, dove era arrivata tanta gente, ci accoglie dicendo: i nuovi sono troppi, vanno in un quartiere, che erano i quartieri, ve li ricordate, una fila, e stanno solo loro lì, se mi seguono bene, se no pazienza. È iniziato il mio odio per la scuola, per questa discriminazione, che ho superato circa 6 anni dopo, trovando dei professori decenti. Ma il peggio, per conto mio, era il catechismo per la preparazione alla comunione. Per me, che ero una bambina serena, avevo un gatto e un cane, in casa stava abbastanza bene, arrivo a questo catechismo e comincio, a parte quest'occhio di Dio che mi vedeva sempre e mi terrorizzava. Per quello ci si va al catechismo, se no non ci si va. Sì, ma alle storie io quello, pensi, quello per me, era un bel periodo, invece mi sono divertito. Ho mangiato dopo la mezzanotte. Allora, bisognava digiunare dalla mezzanotte. E la storia media era un bambino che non ha digiunato, poi ha preso l'ostia e soffocato. Sì. Allora, voi pensate, ve la voglio dire perché è pazzesca, che dopo il ritiro di 3 giorni, io sono andata a casa, ho preso la mia biciclettina, e allora si poteva girare fuori di casa, i bambini giravano intorno agli isolati, sono caduta e ho detto: l'unica bestemmia della mia vita. Appena fatto il ritiro. Perché ero talmente ossessionata da tutta questo racconto. Per fortuna che non l'ha raccontato, se no la mandavano subito dall'esorcista. Grazie Luisa. Claudio. Sì, Salve, buongiorno, complimenti per la trasmissione. Vada, racconto e non ci giri intorno. Lei è una storia terribile. Che le hanno fatto? Allora, i miei genitori, nell'atto di togliermi il ciuccio di bocca, io ho 46 anni, sono un 63, faccio parte, credo, della sua generazione a grandi linee. Di che anno è lei? 63. Sì, figura, c'ha 11 anni meno di me, pensi un po', potrebbe essere suo padre. Dai, vada avanti, racconti la storia del ciuccio. È andata a finire in questo modo: nell'atto di togliermi il ciuccio, non trovando altro sistema migliore, poi negli anni è stata sviscerata questa cosa con mia moglie prima e con mia figlia dopo, la storia del ciuccio, hanno risolto il problema in questo modo: mio padre a sedere mi teneva fermo e mia madre bruciava il ciuccio. Cioè, aspetti, fermo un attimo, va detta con calma. Suo padre la bloccava. Esatto, come se fosse, che ne so, una scena violenta di guerra, che un gruppo di terrificanti prende il bambino, dice guarda adesso cosa ti facciamo. Sua madre la teneva fermo con gli occhini aperti, magari. Me l'ha bruciato di fronte. E sua madre bruciava il ciuccio davanti. Davvero. Quindi lei ha visto squagliare lentamente la tettarella, che era l'unico legame che aveva ancora con il simulacro di maternità, dalla stessa madre che gli aveva negata. Esatto, mi dia altri 2 secondi. No, io scusi, sto dando drammaticità alla sua storia. È mai drammatica, voglio dire. Poi va fatto un altro discorso di contestualizzazione, perché secondo me si fa la fine della Montessori qui, no? La Montessori è stata il top per ciò che riguarda gli italiani. Nell'insegnamento dei bambini. Poi ci si rende conto, io ho avuto una maestra all'elementare scuola Montessori che girava, e me lo ricordo ancora, con il righello di legno e i rivetti di ottone. Allora, per ricordarsi i rivetti di ottone, lei si immagini che condizioni. Guarda che io l'ho fatta la Montessori, so esattamente di cosa sta parlando. Allora, conosco i regoli colorati. Basta, io volevo contestualizzare. Cioè, io sono passato dalle suore alla Montessori, quindi ho avuto una gamma di esperienze, lei nemmeno immagina. Prego, vada avanti. Allora, fatto sta, insomma, quando poi ho conosciuto quella diventata poi mia moglie, gli ho raccontato, chissà per quale caso strano, della vita, della testa. Della tetta bruciata. Sì, e lei il giorno dopo si è presentata al lavoro a prendermi con un ciuccetto di plastica della Chicco. Evidentemente il trauma era stato talmente, ed è stato talmente. E lei cosa portava? Big Jim, scusi, no, perché questo rapporto, sua moglie invece della tetta le dava la tettarella. Questo lo lascio alla. Vabbè, buon divertimento. E vedo che sta elaborando felicemente il suo trauma, quindi è perfettamente pronto a fare il serial killer. Andrina. Buongiorno, buongiorno. Allora, crudeltà subito, crudeltà inferte. Sì, allora, la mia mamma, io citavo anch'io, ciucciavo il dito, a Bologna si dice citare. E gli ha bruciato il dito, spero. No, tutti i giorni, almeno 5-6 volte al giorno, per farmi mangiare, per farmi fare le cose, per farmi dormire, tutte le volte che mi vedeva col dito in bocca, fin da piccolissima mi diceva qualcosa che era ti tompa se val fium, su medre se val l'omla, l'omla se smursè, ti tonna se manghetta. Ecco, se ce la traduce magari capiamo meglio. Titone, cioè quello che tittava, passava il fiume, sua madre gli faceva lume. Il lume si è spento e Titone ha negato. Io sono terrorizzata e me ne sono accorta adesso, quindi meloga anche terapeutico, sul fatto che io sono completamente. E lei che traumi ha avuto da questa? Io sono terrorizzata dall'acqua. Ah, no, pensavo da succhiare il dito. Io quando devo passare sopra un ponte, se devo prendere un traghetto, io non prendo traghetti, non prendo nave, non andrò mai in crociera. E questo non ha influito nei suoi rapporti crescendo o affettivi? Non lo so, me ne sono accorta adesso mentre ascoltavo voi, ho detto, ascoltavo l'altra persona che diceva quella filastrocca e ho unito per un attimo le cose, forse l'avevo voluto dimenticare e ho detto guarda questa mia grande paura dell'acqua, di non riuscire a passare sopra dei ponti se sopra. Basta passarci senza avere niente in bocca, signora, non si mette il dito in bocca, non affoga. Va bene, nessuno mi farà affogare, ok? Lo auguro di sì. Arrivederci, buongiorno Alfonso. Sì, buongiorno. Io ho una bellissima fotografia che guardo sempre con molta tenerezza, ma dove sono veramente in una situazione tristissima. Praticamente siamo io e mia sorella in posa davanti a una radio delle prime, sto parlando degli anni 50, io ne sono del 49, di quelle radio che avevano, alzando il coperchio, avevano anche il giradischi. Avevamo certo. Questa radio che era stato un acquisto di quelli lussuosissimi, con sopra una boccia col pesce rosso, che adesso mi risulta essere perfino vietata. Pare che ci sia una legge che vieta di tenere i pesci nelle bocce rotonde perché altrimenti impazziscono. Questo l'ho saputo l'altro giorno. Vabbè. E avevamo appeso un pupazzo del musichiere, perché era evidentemente uno dei prime operazioni standard della storia. La cosa buffa è poi che alla fine abbiamo finito. Io lavoro per a Canale 5 seguo le telepromozioni, no? Sì. Nei programmi a quiz. Come, e dove è finito quindi? Volta. E quindi sono finito a fare quel lavoro lì. Mia sorella lavora a Radio Popolare, quindi c'ha questa radio simbolica che rappresenta. E il pesce, che è diventato pesce in famiglia? Il pesce probabilmente credo che sia diventato mangime per qualche gatto di passaggio. Va bene, non c'era profezia nel pesce rosso. Ecco l'acqua santa. Io ti battezzo nel nome del Padre, Figlio, Spirito Santo. Amen. Il 3. Tristina, carissimi, vi invio un mio contributo iconografico per la Galleria dei Tristini. Nonostante la mia infanzia sia in realtà normalmente felice, ritengo che questa fotografia abbia le carte in regola per entrare nella vostra rassegna. Infatti, mi ritrae da sola, quasi 30 anni fa, vedasi il bordo della foto, e il meglio sta nell'accessorio che tengo in mano. Un giornale locale di partito, come dimostra lo scudo crociato, visibile proprio nel centro dell'immagine. In questo modo mi gioco anni e anni di inquadramento a sinistra, ma dovevo condividere con qualcuno il mio scheletro nell'armadio. Ciao a tutti, Carla. 800240024. Gli stracci finalmente stanno volando all'aria. Stefano, buongiorno. Sì, buongiorno. Cosa le hanno fatto da piccolo? E niente, io sono stato un dislessico. Ovviamente credevo di essere dislessico, ma in realtà era il tormento che mi dava mia madre quando dovevo leggere. E per cui, siccome lei leggeva molto velocemente, vedendomi così balbettare, mi continuava a dire che dovevo esercitarmi, che e a volte mi faceva leggere davanti alle persone. Per cui era un tormento continuo che ancora mi dà un'emozione un po'. Beh, adesso non ci schiatti qui in diretta, lo racconti con leggerezza, tanto è un momento. Le mettano le orecchie d'asino? Sì. Poi a scuola. Vabbè, ma quanti anni sono passati? Mi sono spostato. Ma quanti anni sono passati? Io già sono quasi settantenne. Vabbè, ci faccio una risata, è liberatorio. Parlarne adesso, dopo essere sopravvissuti a queste cose, si può parlare anche con il sorriso sulle labbra, noi ci stiamo organizzando. Tutti noi guardiamo dentro di noi, io le posso dire, in prima elementare, così si conforta, c'era il gabinetto alla turca. Era una prima elementare rurale, c'erano i manifesti alle pareti dei bambini con i moncherini che saltavano sulle bombe, quindi pensi il clima. Ogni tanto qualche bambino faceva pipì fuori e sporcava un po' questo gabinetto. Un giorno la maestra mise il capoclasse, il più ruffiano di tutti, a guardia del gabinetto. Ognuno che entrava segnalava se era stato l'orrendo lordatore. Questo si vendicò con la più carina, la più innocente, la più improbabile delle lordatrici, che era una bambina che si chiamava Oriana, con le treccine bionde bellissima. La maestra, terrificante, chiamò tutta la scolaresca davanti alla porta del gabinetto. Prese questa bambina e la intinse con la faccina quasi a contatto con il liquame di quel gabinetto per dimostrare cosa accadeva al lordatore. Di fronte a questo, le sue orecchie d'asino non sono motivo di trauma senile. Mi dia retta, prego. No, ma il mio trauma non era tanto l'orecchia d'asino, perché alla fine, insomma, era una cosa che saltuaria, insomma, poteva succedere solo qualche volta, perché in realtà io, venendo da Catania, dove nell'immediato dopoguerra durante la guerra le scuole erano molto approssimative, mentre in Libia, lì, essendo un ambiente, diciamo, che ricordava il fascismo e le cose, per cui la scuola era molto più seria, eccetera, lì mi sono trovato totalmente a disagio, non avevo, a parte la mia dislessia. Vabbè, adesso è guarito, parla benissimo, quindi come vede era un problema relativo. Cioè, no, io in realtà, siccome ero tormentato da questo fatto che dovevo leggere, eccetera, mi bloccavo completamente. Beh, adesso si è sciolto, c'ha 70 anni, stia tranquillo. Sì, io adesso anche, diciamo, forse grazie a questo autoritarismo. A questo orecchie d'asino. Quindi lei rimpiange l'orecchie d'asino, rimpiange in fondo ciò che le è stato inferto perché le ha permesso di parlare scioltamente, quindi in fondo è anche fortunato, non si lamenti. Cristina, buongiorno. Cristina era talmente forte che è caduta. Riprendiamola perché era molto interessante. Elena. Buongiorno, io ho 70 anni e mi mi ricordo il rito dell'olio di ricino che si prendeva prima e dopo le grandi vacanze. Ma per cioè punizione o per repressione o per... No, no, per purificazione. Ah, per purificazione, catartico. Ecco. Cioè vi purgavano? Schifosissimo. A pensarci mi viene ancora quasi da rimettere. Poi c'era un altro rito. Ma era necessario? Comunque andava fatto così, per prassi. Era un'attenzione speciale che i genitori rivolgevano ai figli, ecco. Era un atto d'amore, secondo loro. Pensate un po', sarà un atto di disprezzo, di odio, se quello era un atto d'amore. Ha ragione. E poi, i primi di dicembre arrivava un bottiglione da un litro di olio di fegato di merluzzo. E cambiava il menù? Una schifezza unica, guardi. E quella, anche quello è un privilegio per le famiglie, diciamo, medie, ecco, che potevano permetterselo. Ma i poveracci cosa davano? L'acido solforico diretto? No, guardi, e i poveracci si rinforzavano e... Cioè non si purgavano perché non mangiavano, probabilmente. Esatto, esatto. Vabbè, allora sia fortunata che ha avuto sia l'estasi dell'abbraccio materno e sia anche il piacere e la soddisfazione della catarsi con l'olio di ricino e di fegato di merluzzo. Mauro? Pronto, buongiorno a tutti. È un episodio di violenza fra ragazzini che ha dell'incredibile e fa impallidire il racconto dei ragazzi della Via Pal. Niente, eravamo due bande di ragazzini che si contendevano il possesso della massicciata della ferrovia e usavamo come armi le stecche delle ombrelle sulle quali venivano applicati pezzetti di gomma recuperati dai giocattoli accesi con fiammiferi rubati. Ah beh, frecce incendiarie. Sì, sì. Ma noi facevamo anche la punta strusciandole su un sasso a lungo, voi lo facevate sì, questo? Sì, una cosa terrificante. Certo. Poi una volta io fui catturato dalla banda degli avversari, dei nemici. È stato torturato, spero. Sì, è logico. Preso, messo per terra, in quattro mi tenevano una mano e un altro è passato sulla mia mano con una bicicletta alla quale erano stati tolti. Però capita, se uno viene preso dal nemico è logico che accadano queste cose. Grazie comunque a tutti. Prego, è un piacere tutto nostro. La foto ritrae me, Robin Hood, e mio fratello, Zorro, ad una festa all'asilo. La tristezza è profonda, Sig. Ogni qualvolta mio fratello rivede questa foto, ricorda la voce del fotografo che, saputo il nostro cognome, ci ha voluto ritrarre uniti, sbeffeggiandoci di fronte ai nostri compagnucci che, assieme alle maestre e alla direttrice, osservavano la scena divertite. Un mesto saluto, Mauro e Claudio Chiappa. Poveri fratelli Chiappa, accomunati da un triste cognome che faceva di loro dileggio pubblico. Anche il fotografo di classe, quando li mette vicini per fare la foto di rito, con la complicità della maestra, dei compagni, di tutti, cioè voi dovete stare uno accanto all'altro perché vi chiamate Chiappe e insieme fate un bel culo. Andrea, buongiorno. Andrea? Andrea, è vivo? Si sente bene? Pronto? Eccolo Andrea, sì. Stava piangendo? Gianfranco, no. Ah, lei Gianfranco, vabbè, chiamava Andrea, comunque va bene anche Gianfranco. Va bene Gianfranco. Comunque anche lei ha avuto una bella esperienza di purghe infantili. Infatti, beh, a parte le purghe poi ci stavano le siringhe di rinforzo a base di ferro che... Per compensare lo scompenso dato dalla purga, cioè vi purgavano, chiaramente non vi reggevate in piedi, poi vi danno il ferro per rimettervi in piedi. Infatti, che sì, ma anche un male tremendo. Sì, anche nel il buon Torquemada, dopo aver appeso al soffitto gli inquisiti, gli dava un po' da mangiare, se no non c'era gusto a torturarli. Sì, infatti, l'ambiente era quello dei preti pure, quindi ci facevano pure la famosa pompetta qui a Napoli. No, che è la famosa pompetta? Era una versione minima delle cristere. Non vorrei toccare temi sdrucciolevoli. No, quindi, no, i preti facevano la pompetta? Sì, così, è giusto per tenere in ordine lo stomaco, per farci stare bene. Ma come mai oggi non c'è più bisogno? Per farci digerire quelli che ci mangiavamo in collegio. Sì, ma perché oggi non c'è più bisogno di queste di olio di ricino, di pompette, di siringhe, di rinforzo? Perché? Era un trittico micidiale che ci davano, non lo so. È una cosa bestiale, veramente. Ma c'era dietro l'idea di una catarsi spirituale legata alla purificazione corporale? Probabile, probabile che ci sia stata una catarsi spirituale per farci, o per farci temprare, per farci dimenticare altre cose, non lo so. Va bene, grazie, buongiorno. Grazie. Sì, pronto, buongiorno. Ecco, ce la fa a raccontare? Sì, sì, ho già detto a sommi capi. Dunque, io a 6 anni sono stata in collegio dalle suore perché per motivi di famiglia la mia mamma era molto ammalata. Ora, devo dire, per precisare, non è volontario questo mio sdrucciolare dalle amorevoli attenzioni familiari alle amorevoli, altrettanto amorevoli attenzioni dei collegi, ma la deriva del pubblico va in questa direzione, io devo seguirla. Prego, grazie. E comunque dovevo partecipare, perché ero bellina, a una recita delle suore e io non avevo la mia mamma e bisogna, era d'obbligo, non so perché, mettere delle calze bianche sotto a questa tunica con cui dovevo salire sul palco, e io non avevo le calze bianche, e una suora addetta, una bella suora grande, grossa, che era famosa per essere manesca, vedendo che io non avevo queste calze, mi ha dato un gran ceffone che io ho recepito, che vado una bambina buonissima che nessuno mi aveva mai toccato con un dito. E con quello le si sono sbiancate le gambine all'istante dal terrore. Ma dicevo, la cosa che più mi ha scioccato è che c'era una bambinetta della mia stessa età che abitava nella mia casa, erano nostri inquilini, cui il padre era in galera. Cioè, ormai un pregiudicato perché usciva e entrava dalla galera, e questa bambina non pagava la retta perché non ne aveva le possibilità, e allora per compensare la cosa gli facevano pulire i cessi. Beh, mi sembra giusto, si doveva dare da fare anche lei, mica stava lì per caso. Dato che i miei figli alle scuole private di preti e suore non sarebbero andati. Vabbè, ma le cose sono forse un po' cambiate, oggi non accadono più queste cose. Franco, velocemente, in una battuta, cosa le faceva la maestra? Niente, questa maestra bacchettava per qualsiasi maestra ultra sessantenne, sì, negli anni 67. Cosa usava per picchiarvi? Una bacchettina, un righellino di legno bello giallo che ancora... E vabbè, quanto la fa lunga, avesse usato una spranga di ferro per una bacchetta, quanto siete esagerati. Ci sentiamo domani. Finisce così, questa favola breve se ne va. Ma aspettate, e un'altra ne avrete. C'era una volta, il cantafiabe dirà, e un'altra favola comincerà. Lasciate un messaggio alla segreteria telefonica di Melog. 828 1111.